X24, la storia. Yossi fu assassinato in maniera brutale. Non è morto all'istante. I terroristi lo torturarono spietatamente davanti ai suoi amici. Non permisero ad alcun dottore di visitarlo, né permisero che l'ostaggio ferito, mio marito, fosse scambiato con qualcun altro, con un'altra persona. La morte e la tortura di Yossi servirono ai terroristi come esempio per gli altri ostaggi, per terrorizzarli, per renderli inoffensivi. Non lo farei come lo fece allora, lo farei meglio. Finché gli israeliani continueranno a occupare e a violentare la mia terra, farò tutto il possibile in qualsiasi parte del mondo per oppormi a questa ingiustizia. Quelle che abbiamo appena sentito sono le voci del carnefice e delle vittime. E tra queste due testimonianze drammatiche che si racchiude la storia che vogliamo raccontare oggi a Mix 24. È il 1972, a Monaco di Baviera si svolgono i 20esimi giochi olimpici. Poi d'improvviso un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico e sequestra 11 atleti israeliani. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania Federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si profone tra gli armi. Quello che avete appena sentito è il trailer di Munich, il film di Spielberg e la storia della strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del settembre del 1972. Ma da quella strage nasce anche un'incredibile vendetta voluta, organizzata, pianificata dal servizio segreto israeliano, il Mossad, su preciso ordine di Golda Meir. E la storia di quella vendetta è un vero e proprio giallo che noi abbiamo ricostruito con le parole dei protagonisti. Ma partiamo dall'inizio, siamo a Monaco di Baviera, è martedì 5 settembre del 72. Primavera 1972, a Monaco fervono i preparativi per le Olimpiadi. Oltre ai nuovi impianti sportivi, in tutta la città spuntano nuovi alberghi e ristoranti. Anche qualcun altro in un'altra città si sta preparando alle Olimpiadi. Alla volta di Monaco stanno infatti per partire dal Libano anche i membri del gruppo terroristico Settembre Nero, che fa parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. I palestinesi avevano chiesto di partecipare ai giochi, ma poiché non rappresentano uno stato sovrano, il Comitato Olimpico non ha potuto accettare la loro richiesta. Ma i palestinesi decidono di esserci comunque. I palestinesi hanno deciso, anche se non possono partecipare come atleti, a Monaco ci saranno e ci saranno comunque a modo loro. Il gruppo Settembre Nero, l'ala più oltranzista del movimento palestinese, ha in mente un piano eclatante, un'azione terroristica pensata per colpire l'opinione pubblica di tutto il mondo. A gennaio il piano è già pronto. Il piano viene messo a punto sin dal gennaio 1972 da 4 dei principali leader dell'organizzazione. Mahmoud Yusuf Najjar, numero 3 dell'OLP, è responsabile del coordinamento con Settembre Nero. Mohamed Daoud Houdeh, conosciuto come Abu Daoud, responsabile della pianificazione per l'OLP. Ali Hassan Salame, agente di Settembre Nero, soprannominato dagli israeliani il Principe Rosso. Abu Iyad, capo dell'intelligence dell'OLP e capo segreto di Settembre Nero. Andammo a Beirut a incontrare Abu Iyad e gli dicemmo che c'era la possibilità concreta di un'azione spettacolare a Monaco. Era Abu Daoud, i quattro hanno deciso. Tutto il mondo dovrà assistere alla loro azione, ma le cose andranno molto diversamente. Eric Rouleau è uno scrittore e giornalista che conosceva bene Abu Yad. Con lui ha scritto My Home, My Land, il racconto di quello che è realmente avvenuto a Monaco nel 1972. I palestinesi erano umiliati, disperati. Settembre Nero era uno dei mezzi per tenere alto il morale dei militanti. E poi un'azione clamorosa come quella di Monaco avrebbe dato maggiore visibilità alla causa dell'OLP e dei palestinesi. Tutto il mondo avrebbe saputo che i palestinesi c'erano ancora, che bisognava fare i conti con loro, che speravano di vincere. Il progetto iniziale non era di uccidere gli atleti, bensì di rapirli e portarli ad Algeri. Per l'OLP sarebbe stato un successo enorme. Sequestrare gli atleti israeliani a Monaco e chiedere in cambio la liberazione dei compagni detenuti in Cisgiordania. E questo dunque il piano dei leader di Settembre Nero. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si propone tra gli armi. Sono morti tutti. Mix 24. La storia. Bentrovati su Mix 24. È il 1971 e Settembre Nero, l'organizzazione terroristica palestinese, sta organizzando un'operazione complessa, clamorosa, che va studiata nei minimi particolari, quella che avrebbe colpito alle Olimpiadi di Monaco un anno dopo. Affinché l'operazione possa funzionare, servono informazioni dettagliate sul villaggio olimpico. I terroristi hanno bisogno di un basista. Nell'estate del 1972, Settembre Nero prende contatto con il gruppo terroristico tedesco Rote Armee Fraktion. In agosto, militanti della RAF cominciano a studiare le norme di sicurezza adottate intorno al villaggio olimpico e inviano a Settembre Nero le immagini degli obiettivi e tutti i dettagli sui turni di vigilanza. Willy Voss, ex militante neonazista, all'epoca era un attivista della RAF. Avevamo un accordo. I palestinesi avrebbero aiutato noi della RAF. E noi in cambio avremmo permesso a loro di compiere delle azioni in Europa. Il mio ruolo era passare informazioni ai palestinesi che all'epoca vivevano in Europa. Raccoglievo informazioni, consegnavo e riscuotevo denaro. Portavo armi. E tutto ciò di cui un'organizzazione del genere può avere bisogno. I palestinesi, oltre alla liberazione dei detenuti, hanno in mente un altro obiettivo ancora più ambizioso. A Monaco, infatti, per le Olimpiadi saranno presenti le televisioni di tutto il mondo per i palestinesi. È un'occasione irripetibile per portare alla ribalta internazionale la causa del proprio popolo. Monaco di Baviera, sabato 26 agosto 1972. Migliaia di persone sono arrivate da tutto il mondo per celebrare ancora una volta la fratellanza tra i popoli. A queste Olimpiadi partecipano anche 28 atleti israeliani, anche loro pieni di sogni, speranze, ottimismo. Ma quelle che stanno per aprirsi sono le Olimpiadi più tragiche e drammatiche della storia. Il 5 settembre, Settembre Nero, entra in azione. Alle 4:40 del mattino, un gruppo di persone incappucciate penetra nel villaggio olimpico. Il comando si muove nei vari edifici, perlustrando i corridoi in cerca di atleti israeliani. Nel giro di pochi secondi, i terroristi hanno il controllo degli alloggi degli atleti israeliani. Se non verranno eseguite le loro istruzioni, comunicano alle autorità tedesche, faranno una strage. alle Olimpiadi di Monaco è il caos. Il villaggio olimpico viene evacuato, accerchiato dalle forze dell'ordine. Intanto le centinaia di troupe televisive che seguono i giochi si accalcano nei pressi della palazzina degli atleti israeliani. La notizia ovviamente fa il giro del mondo e arriva subito anche sul tavolo del governo israeliano, sul tavolo di Golda Meir. E arriva anche ai familiari degli atleti israeliani a Monaco. Ho chiamato la commissione olimpica e ho chiesto cosa è successo. Loro mi hanno risposto: Ilana, non ti preoccupare, sono entrati nel reparto degli allenatori e degli arbitri. C'è un morto tedesco, ci sono degli ostaggi, ma non ti preoccupare per gli ossi. Chiudo il telefono, mi siedo e comincio a pensare. Se Yossi non fosse coinvolto, telefonerebbe. A mezzogiorno uscì un'altra agenzia che diceva che Yossi era fra gli ostaggi. Golda Meir apprende la notizia di prima mattina, nella sua casa a Gerusalemme. Ascoltiamo la voce di Shimon Peres. Golda rimase scioccata. Era una delle esperienze più traumatiche della nostra storia. Per Golda Meir, quanto sta accadendo a Monaco è qualcosa di più dell'ennesimo atto di terrorismo. L'assassinio di ebrei sul suolo tedesco. Subito in Golda si rinnova il ricordo della Shoah, ancora molto vivo in lei. Golda Meir è un po' la madre del popolo ebraico. Ora per lei è il momento di difendere i suoi figli. La prima domanda che ci ponemmo fu: possiamo inviare in Germania, da Israele, un reparto speciale per liberare i nostri atleti? Golda Meir convoca Zvi Zamir, direttore dell'Istituto Centrale Israeliano per l'Intelligence e la Sicurezza, un organismo segreto conosciuto in tutto il mondo, con un termine che in ebraico significa istituto, Mossad. Golda incarica anche Aaron Yariv, il capo del servizio segreto militare, di valutare la possibilità di un intervento per liberare gli ostaggi. Ricordo che per tutta la giornata ci furono intense discussioni. Ehud Barak, futuro primo ministro israeliano, nel 1972 è il comandante di un'unità da combattimento. All'epoca ero comandante del nostro reparto scelto. In Israele, ma forse nel mondo, non c'era altra unità più addestrata della nostra per questo genere di operazioni. Inviamo il capo del Mossad in Germania per studiare le varie possibilità, ma i tedeschi risposero che potevano gestire la situazione. Zvi Zamir voleva essere sul posto per verificare meglio quello che accadeva. Soprattutto sperava di convincere il governo tedesco e gli ufficiali dell'esercito ad autorizzare un nostro intervento. Qui in Israele eravamo pronti a partire immediatamente. Era la voce di Muki Betzer, ex ufficiale dell'esercito israeliano. 5 settembre, ore 2:30 del pomeriggio. Il capo del Mossad, Zvi Zamir, atterra a Monaco. Zamir viene accompagnato immediatamente a Connolly Strasse, dove sono tenuti gli ostaggi. Con sé, Zamir ha un messaggio di Golda Meir, che offre ai tedeschi l'aiuto di Israele. Mentre il Mossad a Tel Aviv studia le contromisure, da Monaco arriva la conferma. Tra gli atleti sequestrati ci sono già le prime due vittime. Sono Moshe Weinberger e Joseph Romano, detto Yossi. Alle 6 di pomeriggio mi bussarono alla porta e chiesero di parlare con il fratello di Yossi. Risposi che io ero la moglie e che mi dicessero che cosa fosse successo, perché vidi un dottore e capii all'istante. Mi dissero: Yossi è ferito grave. Risposi: no, non è vero, Yossi è morto. Yossi Romano è morto da eroe tentando di reagire ai sequestratori, ma per gli israeliani la notizia di queste due morti è solo l'inizio di un incubo che si sviluppa ora per ora. Intanto 900 milioni di telespettatori in tutto il mondo seguono angosciati in diretta TV gli sviluppi della trattativa. Si vede uno dei terroristi mentre si affaccia per parlamentare. Mentre fotografi e cineprese di tutto il mondo sfollano intorno all'edificio, i terroristi rendono note le loro richieste. In cambio della vita degli atleti israeliani dovranno essere liberati 234 detenuti tra palestinesi e tedeschi. Tra questi anche Ulrike Meinhof e Andreas Bader, fondatori e leader del gruppo Bader-Meinhof. In Israele l'opinione pubblica reagisce con orrore e sgomento. Del resto è quello che speravano i terroristi. L'intero paese segue in televisione quanto sta accadendo a Monaco. Zamir scrive a Golda Meir: i tedeschi non accettano l'aiuto di Israele. Golda non ha il minimo dubbio. Israele non tratterà mai con i terroristi. Accetterà soltanto una resa totale. A tarda sera i terroristi fanno una nuova richiesta. Vogliono essere condotti all'aeroporto con gli ostaggi. È quello che i tedeschi aspettavano. Ora è possibile un'azione di forza. Ascoltiamo Muki Betzer. I tedeschi non avevano una squadra antiterrorismo. Quello all'aeroporto era solo un gruppetto di poliziotti senza alcuna motivazione, cui non importava niente di rischiare la pelle. Non avevano nessuna preparazione per il tiro di precisione, per l'irruzione, niente di tutto questo. Erano solo poliziotti, non professionisti. Quando il convoglio raggiunge l'aeroporto, la polizia tedesca entra in azione. Ma le forze dell'ordine perdono subito il controllo della situazione. Presi dal panico, i terroristi aprono il fuoco e lanciano una bomba a mano. Quando il fumo si dirada a terra, ci sono i cadaveri dei 9 ostaggi israeliani e di 5 terroristi. 3 terroristi ancora vivi vengono subito arrestati dai tedeschi. Ascoltiamo la stessa voce di Abu Daoud. Quando abbiamo preso gli ostaggi, non intendevamo fargli alcun male. Invece ci assediarono all'interno dell'aeroporto militare. E da qui la strage. Le forze speciali e i cecchini tedeschi circondarono l'aereo e cominciarono a sparare senza motivo. Hanno colpito prima di tutto gli atleti israeliani e poi i nostri fedaini. Di fronte a questo atto di barbarie, il mondo reagisce con orrore. Qualcuno propone anche di annullare le Olimpiadi. Per molti, tuttavia, questo significherebbe ammettere che a vincere sono stati i terroristi. Dopo una cerimonia commemorativa, i giochi vanno avanti, ma senza gli atleti israeliani superstiti. Hanno perso 11 amici, preferiscono tornare a casa. Un evento iniziato in un clima di riconciliazione e speranza è finito in un brutale massacro. Dovevano essere le Olimpiadi della pace e della gioia, invece sono finite in un bagno di sangue, ma la risposta del governo israeliano non si fa attendere. Questa notte, in uno dei campi palestinesi colpito ieri pomeriggio dall'incursione aerea israeliana in Libano, qui si piangono 5 morti, 3 dei quali sono bambini. Una quindicina di ragazzi sono rimasti feriti e sono ora all'ospedale. Altrettanti sono i dispersi. L'altra incursione in territorio libanese, quella nella zona di Rashaya, nell'Arkub, ha causato 11 morti e 10 dispersi. In Siria sono denunciate un'altra ventina di vittime. Una risposta dura e violenta dunque quella del governo di Tel Aviv, ma per Golda Meir questa risposta non basta. Per Golda bisogna trovare e punire i mandanti, i finanziatori e gli organizzatori di quel massacro. Il 12 settembre del 72, una settimana dopo la strage, Golda Meir prende la parola di fronte al Parlamento israeliano. Non abbiamo altra scelta se non quella di colpire le organizzazioni terroristiche, ovunque siamo in grado di farlo. È un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso la pace, e assolveremo questo dovere in modo inflessibile. Mentre Israele piange le vittime della strage di Monaco, Golda Meir riunisce i capi dell'intelligence israeliana e istituisce una squadra top secret cui affida il compito di terrorizzare i terroristi. Nome in codice Comitato X. A dirigerlo sarà il generale Aaron Yariv. Yariv crede nell'azione silenziosa, eseguita senza l'aiuto della comunità internazionale. Con Zvi Zamir, il capo del Mossad, Aaron Yariv mette a punto il piano. Attraverso il Comitato X, il Mossad forma un'unità speciale di agenti che dovranno stanare e uccidere, uno ad uno, chiunque sia stato coinvolto nell'attacco di Monaco. A Tel Aviv, il Mossad comincia a raccogliere informazioni sul nucleo operativo responsabile del massacro. Golda Meir esige di essere informata continuamente. Per ciascuno dei terroristi viene compilato un dossier personale. In cima alla lista, che comprende 12 terroristi, c'è Ali Hassan Salameh. Il principe rosso in passato è già scampato alla cattura da parte del Mossad. Stavolta però l'obiettivo è la sua eliminazione. Attraverso la sua rete di informatori sparsa in tutto il mondo, il Mossad ottiene notizie preziose su Settembre Nero, i suoi militanti, le armi e i finanziamenti di cui dispone. Ascoltiamo l'ex agente del Mossad, Dave Kimchi. Reclutare degli agenti all'interno delle formazioni terroristiche è sempre molto difficile. Di solito i terroristi sono molto motivati, operano in piccoli gruppi ed è estremamente difficile trovare qualcuno al loro interno che sia disposto a tradire i propri compagni e i propri ideali. Ma vi posso assicurare che noi riuscimmo a ottenere risultati notevoli. Il Mossad viene considerato unanimemente il servizio segreto più efficiente del mondo. Mix 24, la storia. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si propone tra gli armi. Quando abbiamo preso gli ostaggi, non intendevamo fargli alcun male. Invece ci assediarono all'interno dell'aeroporto militare. E da qui la strage. Le forze speciali e i cecchini tedeschi circondarono l'aereo e cominciarono a sparare senza motivo. Hanno colpito prima di tutto gli atleti israeliani e poi i nostri fedaini. Non abbiamo altra scelta se non quella di colpire le organizzazioni terroristiche, ovunque siamo in grado di farlo. È un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso la pace, e assolveremo questo dovere in modo inflessibile. Bentrovati su Mix 24. Un mese dopo la strage di Monaco, il Comitato X, cioè la squadra top secret istituita da Golda Meir per vendicarsi del massacro di Monaco, è già in possesso di precise informazioni su Settembre Nero. Ma che cosa è davvero Settembre Nero? Settembre Nero è nato in Giordania nel 1970. La capitale giordana, Amman, era all'epoca il quartier generale di Fatah, l'ala militare dell'OLP. Dalla Giordania i palestinesi lanciano le loro azioni contro Israele e cercano di portare la loro questione alla ribalta internazionale. Il 6 settembre 1970, un gruppo armato dirotta 3 aerei di linea nel deserto giordano. Dopo aver fatto allontanare tutti i passeggeri, i terroristi mettono in scena uno spettacolo pirotecnico per il mondo intero. Re Hussein di Giordania è costretto a intervenire. I dirottamenti furono la classica goccia che fa traboccare il vaso. Bisognava fare qualcosa. Il 16 settembre 1970 l'esercito di Hussein lancia un'offensiva contro i campi profughi in Giordania. È un bagno di sangue con migliaia di palestinesi uccisi e decine di migliaia feriti. Altre migliaia di palestinesi vengono espulsi, costretti a trasferirsi in fatiscenti campi nel Libano meridionale. Anche l'OLP trasferisce la propria sede a Beirut. Ma è dalle ceneri dei campi dati alle fiamme che nasce un nuovo e spietato gruppo terroristico. Opera sotto l'ala protettrice dell'OLP e perché sopravviva il ricordo di quei tragici eventi, si chiamerà Settembre Nero. Un gruppo deciso e spietato dunque che non si ferma di fronte a nulla, ma ora Settembre Nero è nel mirino di Golda Meir. Dopo neppure un mese dalla strage di Monaco, la sua lista, la lista di Golda, è già pronta. Il primo ministro ha deciso, il comitato X agirà in modo del tutto autonomo e indipendente, senza nessun collegamento ufficiale con il governo senza preoccuparsi della legge e delle sovranità internazionali e risponderà soltanto a lei. Gli uomini che ne faranno parte dovranno dimettersi dal Mossad, dovranno rinunciare alla pensione e dovranno anche rinunciare alla cittadinanza israeliana. Adesso però bisogna scegliere l'uomo che guiderà quel gruppo, e Golda Meir chiama Mike Harari, un veterano delle operazioni speciali dei servizi segreti israeliani. Harari stabilisce il suo quartier generale a Parigi, assume l'identità di un uomo d'affari francese, Edouard Lasky, e inizia a scegliersi accuratamente i membri della sua squadra. Proprio come i maggiori gruppi terroristici in tutta Europa, anche Harari assegna incarichi diversi a piccoli gruppi, in modo che ciascuno agisca indipendentemente e all'insaputa dell'altro. Gli ordini di Mike Harari ai suoi uomini furono: riceverete un elenco con i responsabili della strage di Monaco. Dovrete fare in modo che queste persone non muoiano di morte naturale. È per Ali Hassan Salameh che siamo qui? Questo è il nostro lavoro, no? Siamo qui per uccidere chi ha pianificato Monaco, giusto? È strano considerarsi un assassino, non credete? Pensa a te stesso come a qualcos'altro. Un soldato in guerra. Soldati in guerra, questo si considerano gli uomini del Comitato X. E il Comitato X ha già localizzato il primo bersaglio della lista. L'appuntamento è a Roma, è l'ottobre del 72. Ottobre 1972. Uno dei gruppi di Harari arriva a Roma. Il primo obiettivo è Abdel Wahel Zweiter, un poeta palestinese che lavora come traduttore presso l'ambasciata libanese. Zweiter conduce una vita tranquilla. Vive a Piazza Annibaliano. Il Mossad sospetta che, in quanto rappresentante a Roma di Settembre Nero, Zweiter sia coinvolto nell'organizzazione logistica dell'azione di Monaco. Lunedì 16 ottobre 1972, ore 22:30. Zweiter rientra a casa dal lavoro. Al buio, dietro la porta, c'è una persona ad attenderlo. Il corpo di Zweiter viene crivellato con 11 proiettili, uno per ciascuno degli atleti massacrati. La polizia italiana appura che i bossoli provengono da una beretta, l'arma preferita dagli agenti del Mossad, l'arma che diventerà il loro biglietto da visita. Golda Meir riceve il messaggio. Numero 1 eliminato. Abdal Al-Zweiter, Roma, 16 ottobre 1972. Obiettivo colpito. L'omicidio di Zweiter a Roma provoca violente polemiche in Italia. L'esponente di Al-Fatah è considerato da molti un intellettuale, un poeta del tutto estraneo alla tragedia di Monaco. Ma non c'è tempo per le polemiche. 13 giorni dopo la morte di Zweiter, a sole 7 settimane dal massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi, l'attenzione del mondo torna a concentrarsi su Monaco. Un comando arabo dirotta un aereo della Lufthansa ha chiesto e ottenuto la liberazione dei 3 guerriglieri detenuti in Germania dopo la strage di Monaco. I 3 prigionieri arabi che erano detenuti in 3 diversi carceri della Baviera vengono portati agli elicotteri che li condurranno all'aeroporto di Monaco. In Israele è vivissima l'emozione. Si parla, come ha detto il ministro israeliano, il ministro Galili, di resa tedesca al ricatto dei terroristi, resa che non potrà essere scusata, specie dopo l'orribile massacro di Monaco. Did you shoot any of the Israeli hostages? Avete sparato agli ostaggi israeliani? Non è importante se ho ucciso gli israeliani. Tu personalmente hai sparato. Sappiamo che Israele è il nostro nemico. Cosa avete ottenuto? Abbiamo fatto sentire la nostra voce al mondo. Sono le sue parole? Ripeto, hanno fatto sentire la loro voce a tutto il mondo che prima non stava ad ascoltare. They have made their voice heard by the universe or the world or has not been hearing before. Quegli uomini erano gli stessi che erano dentro la stanza del villaggio olimpico. Erano gli stessi che avevano massacrato Yossi. E li vedo rallegrarsi, fare il segno di vittoria con le dita in Libia. E allora mi chiedo, Dio mio, ma dov'è la giustizia? Mix 24, la storia. Quegli uomini erano gli stessi che erano dentro la stanza del villaggio olimpico. Erano gli stessi che avevano massacrato Yossi. E li vedo rallegrarsi, fare il segno di vittoria con le dita in Libia. E allora mi chiedo, Dio mio, ma dov'è la giustizia? Maurizio Molinari, giornalista, scrittore, inviato per la stampa a Gerusalemme, stiamo raccontando la tragica storia di quell'attentato alle Olimpiadi di Monaco del 72 e la vendetta spietata di Golda Meir. Lo abbiamo sentito, la moglie di una delle vittime, Ilana Romana, chiedeva giustizia. Secondo te così è stata fatta? Israele fu scioccata dall'attacco alle Olimpiadi di Monaco e dovette trovare una formula per rispondere. Golda Meir riunì i suoi più stretti collaboratori e uno di loro gli disse che bisognava braccare i terroristi dell'OLP esattamente come gli italiani avevano fatto con i criminali nazisti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ogni criminale che si macchia del sangue di un ebreo, gli disse questo collaboratore, deve essere eliminato. E quindi Golda Meir ripeté lo stesso modello, sarebbe stata caccia ad ognuno. Il fattore Germania contava? Contò molto come precedente. E Israele applicò lo stesso modello, la caccia ai criminali nazisti che si svolse in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e che vide in primo piano il Mossad fino alla cattura di Eichmann in Argentina, si ripeté nella sua formulazione nei confronti dei terroristi palestinesi autori dell'attacco alle Olimpiadi di Monaco. E da quel momento in poi quel modello ha guidato la risposta al terrorismo da parte di Israele, cioè cercare i singoli responsabili e colpirli. Ma secondo te nel 72 era prevedibile una reazione del genere da parte di Golda Meir? No, io credo che Golda Meir fu sorpresa, che gli israeliani non si aspettavano quell'attacco, il livello di sicurezza della squadra israeliana era molto basso, la vulnerabilità molto alta, ma l'abilità di Settembre Nero di realizzare un attentato che non aveva precedenti, esattamente come l'11 settembre Bin Laden realizzò contro gli Stati Uniti un attentato che non aveva precedenti. L'abilità nel colpire è di indovinare una formula nuova. Ma oggi la reazione da parte di Israele sarebbe la stessa? Cioè, quella è la linea? È interessante notare che oggi Israele, quando colpisce la Jihad islamica o Hamas o gli Hezbollah, punta sempre a eliminare i singoli responsabili degli atti o i capi di queste organizzazioni, mai l'intera organizzazione. È una vera e propria caccia all'uomo. Io credo che nasca da lì. Com'è possibile che uno dei maggiori ricercati, Abu Daoud, che ha rivendicato quel massacro, sia poi rimasto vivo? Perché ci fu l'incidente di Lillehammer che interruppe la serie di tentati assassini in Norvegia, dove invece del terrorista... Sì, fecero un errore, lo abbiamo raccontato, quindi... Che portò all'interruzione dell'operazione. Beh, poi continuarono, giusto? Anche dopo? Sì, ma l'operazione per 6 mesi venne interrotta, il responsabile fu punito e insomma ci fu un ripensamento dei metodi e questo fa anche ragionare sui rischi della caccia chirurgica ai singoli responsabili, perché a volte si possono commettere degli errori. Ecco, appunto, che ne pensi? È La guerra al terrorismo è un tentativo continuo, noi stessi adesso ce ne rendiamo conto di fronte alla sfida di ISIS, non c'è una ricetta perfetta, si va a tentativi perché il nemico è imprevedibile. Oggi chi sono gli eredi di Settembre Nero? Oggi sono i leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, in gran parte hanno rinunciato alla violenza e hanno accettato la pace con Israele. La guerra, la lotta armata non è più perseguita dagli eredi politici e militari di Yasser Arafat, bensì dai loro avversari, ovvero da quei gruppi jihadisti islamici che contestano l'autorità palestinese. E in questo la storia si è presa una sarcastica rivincita. Cioè all'interno dei territori gli eredi di Arafat si devono guardare e proteggere da azioni violente messi a segno da gruppi rivali jihadisti che sono contro il nazionalismo arabo e contro il nazionalismo palestinese. Credi che i servizi di intelligence israeliani siano sempre più forti al mondo? No, io credo che siano, non lo siano mai stati. La loro unica caratteristica è di essere molto ristretti, di essere composti da poche persone che si conoscono molto bene, che sono addestrate molto bene, ma sul piano degli strumenti dell'intercettazione, oggi soprattutto la guerra elettronica, sono molto indietro rispetto agli americani, i russi, i cinesi, i nordcoreani, i sudcoreani. Cioè la realtà vera è che ciò che distingue l'intelligence israeliana sono gli uomini, non gli strumenti. Se dovesse vincere il Partito Laburista adesso nelle elezioni il 17 marzo in Israele, davvero ci possono essere più speranze per la pace? I palestinesi ritengono di noi, i palestinesi di Abu Mazen ritengono che l'ostacolo con Netanyahu potrebbe riproporsi anche con Herzog, perché ritengono che nessun governo israeliano avrà mai il coraggio di sradicare dai territori della Cisgiordania 250.000 israeliani. E tu cosa pensi? A ritenere invece che ci possano essere migliori speranze di pace sono tutti quegli israeliani che voteranno per il Partito Laburista. Bisogna tenere presente che c'è una sinistra israeliana profondamente convinta nella soluzione dei due stati che scommette su Herzog per la pace con i palestinesi. Tu che ne pensi? Penso che saranno elezioni contestate, testa a testa fino alla fine, una lotta all'ultimo voto, e ne potrebbe uscire anche un governo di unità nazionale. Maurizio Molinari, da un anno tu adesso vivi forse più a Gerusalemme, ma davvero possono coesistere due stati? Se i due popoli lo vogliono, sì. Al momento i due popoli vanno su strade ben diverse, perché gli israeliani non vogliono sradicare gli insediamenti dalla Cisgiordania e i palestinesi non vogliono rinunciare al diritto al ritorno, e quindi ci sono due ostacoli concreti sul territorio che impediscono la convivenza fra due stati. È vero però che all'interno dei due campi esistono minoranze che credono ancora nel modello di Oslo, e questo fa sì che l'ipotesi resti. Grazie Maurizio Molinari, riprendiamo allora domani con la seconda parte della storia della caccia agli assassini del massacro delle Olimpiadi di Monaco nel 1972. Mix 24.